Russia. L'Europa apre un'indagine su Google per abuso di posizione dominante nelle ricerche su internet. Rischia l'azienda una multa da 6 miliardi. Il giorno del 7.30 precompilato si può scaricare da questa mattina dal sito dell'Agenzia delle Entrate. Il Senato vota la fiducia al governo sul decreto contro il terrorismo, sì anche dagli ex forzisti Bondi e Repetti, ma l'attenzione si concentra sul PD, scontro interno sulla legge elettorale. C'è ancora incertezza sulla sorte di 400 persone che sarebbero morte in un naufragio al largo della Libia. Regioni preoccupate per l'accoglienza. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito della radio, www.radio24.it, e durante la diretta il numero di sms, il 349-238-6666. Torneremo anche sui crolli di queste ore, abbiamo parlato nei giorni scorsi della scuola di Ostuni, ebbene c'è stato un crollo anche in una scuola di Olbia, parleremo con il sindaco e stiamo cercando di raggiungere l'assessore ai lavori pubblici della Sardegna perché è venuta giù una strada anche là, una strada costata 55 milioni e sempre per lo stesso motivo, per una frana, vedremo se riusciremo a raggiungerlo nel corso della puntata. In apertura però parliamo della decisione della Commissione Europea di formalizzare le accuse contro Google. 5 anni di indagini e molte indiscrezioni già filtrate nelle scorse settimane sui quotidiani economici internazionali. Alla fine la Commissione ha deciso 2 indagini formali nei confronti di Google. We have adopted a statement of objection to Google. È la commissaria Vestager ad annunciarle, la prima per abuso di posizione dominante nella ricerca online. Sotto la lente di Bruxelles la comparsa e il posizionamento di certi risultati di ricerca, in particolare relativi allo shopping. La seconda sulla condotta di Google sul proprio sistema operativo Android. A questo punto Google ha 10 settimane per rispondere e la commissaria si attende spiegazioni convincenti perché, ha detto, l'interesse da tutelare è quello del consumatore, lo scopo non è colpire la società, che sia europea o americana, non ha alcuna importanza. A Mountain View si dicono pronti, con una relazione fatta di esempi concreti, corredata da grafici, su come ci sia grande competizione e soprattutto di come l'utente possa sempre scegliere liberamente quali servizi usare. Tutte le strade restano aperte, ha sottolineato la Vestager, anche quella che porta la multa, che potrebbe superare i 6 miliardi di dollari. Secondo alcune stime, ribadite anche dalla commissaria, il 35% dei ricavi Google li raccoglie in Europa e la sua quota nella ricerca online supera il 90% in molti paesi europei, a fronte del 65% negli Stati Uniti. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il governo e siamo alla politica incassa la fiducia del Senato al decreto antiterrorismo che contiene anche la proroga delle missioni internazionali. 161 i sì, 108 i no e un astenuto. Sandro Bondi e Manuela Repetti, che hanno di recente lasciato Forza Italia confluendo nel gruppo misto, hanno votato sì alla fiducia appunto posta dall'esecutivo. Nel frattempo siamo alla resa dei conti nel Partito Democratico sulla legge elettorale in vista della discussione di questa sera. Un confronto che si fa aspro. Nel Partito Democratico si avvicina la resa dei conti sull'Italicum, alle 8 di questa sera Renzi incontrerà i suoi deputati per dettare la linea. La minoranza Dem insiste nel chiedere modifiche della legge elettorale, in caso contrario Area Riformista minaccia di votare contro. Il Premier sembra però determinato a tirare dritto. L'Italicum non si cambia, non siamo a Monopoli, ha ribadito ieri Renzi. L'assemblea di stasera, che si preannuncia infuocata, sarà probabilmente preceduta da un incontro fra lo stesso Renzi e il capogruppo Speranza, un ultimo tentativo di mediazione per evitare lo scontro e stemperare le tensioni alimentate in queste ore anche dalle parole del vice segretario Serracchiani, che oggi ha minacciato il ricorso alla fiducia se le posizioni della minoranza non cambieranno. Sarebbe una cosa grave, è la replica del bersaniano Dattorre, secondo il quale la legge elettorale è una materia di rango costituzionale su cui non può esserci una rigida disciplina di partito. A bocciare l'ipotesi del voto di fiducia, oltre alle opposizioni, sono anche gli alleati di governo del nuovo centrodestra. Non si cambiano le regole con la fiducia, faremo di tutto per evitarla perché sarebbe un grave errore, dice Quagliariello. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo alle cronache e anche qua condite di polemiche politiche sull'immigrazione, una giornata quella di oggi nella quale c'è ancora grande incertezza sulla sorte di 400 migranti che sarebbero morti al largo della Libia. continuano gli sbarchi e continuano purtroppo anche i morti in mare. Sarebbero centinaia, secondo alcuni testimoni, almeno 400, tra cui molte donne e minori non accompagnati. Secondo i sopravvissuti sbarcati a Reggio Calabria all'altro ieri notte della nave Orione, 151 in tutto, degli oltre 20 barconi partiti in questo fine settimana dalla Libia, uno infatti avrebbe fatto naufragio. La notizia è stata diffusa da Save the Children ed è oggetto di verifica. E intanto, dopo i 3.000 migranti giunti ieri da stamane, i porti dell'isola sono di nuovo impegnati ad accogliere i profughi salvati in mare. 400 a Palermo, 230 a Messina, altre centinaia a Catania. In tutto sono 8.500 i profughi tratti in salvo solo negli ultimi 3 giorni. E poi ci sono le polemiche. I centri di accoglienza sono al collasso, ma la necessità di nuovi alloggi si scontra con l'opposizione degli amministratori locali, in particolare quelli leghisti. Non ci stiamo a subire questa invasione, quindi 0 posti anche in Lombardia, ha detto il governatore Roberto Maroni, mentre Salvini spara 0, prima contro l'Unione Europea, abbattiamola visto che davanti a un'invasione se ne frega, e poi contro la Presidente della Camera Boldrini, è ignorante, non è vero che non voglio salvare i migranti, ma più ne invitiamo, più ne muoiono. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Oggi è la giornata nella quale scatta la possibilità di scaricare il 730 precompilato. Come funzionano le cose? Quali sono i dubbi, i problemi? Giovanni Parente, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno, sì, ci siamo finalmente. Oggi è il giorno a partire dal quale si può entrare nel 730 precompilato sul sito dedicato predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Naturalmente per entrarci è necessario avere un PIN che bisognava aver acquisito nei giorni scorsi, o si potrà continuare ad acquisire nei prossimi giorni, oppure anche le credenziali messe a disposizione dall'INPS. Ci stanno segnalando in questi momenti i nostri lettori che stanno facendo le prime prove per verificare appunto se sono presenti tutti quanti i redditi, se sono presenti le detrazioni e le deduzioni che l'Agenzia delle Entrate ha precaricato per quest'anno, perché sono arrivate appunto dai soggetti che hanno trasmesso le informazioni. L'idea, l'impressione è che siamo ancora comunque in una fase abbastanza sperimentale, che in qualche modo lascia trasparire anche alcuni problemi. Ci sono lettori che ci stanno scrivendo e li preghiamo comunque di continuare a farlo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, che magari non c'è tutto, quindi insomma ci si sta rodando, ecco. Sì, ci si sta rodando, Giovanni, e giusto per far capire ai nostri ascoltatori che magari nelle prossime ore procederanno con quest'operazione, oltre probabilmente a non esserci delle cose che ci dovrebbero essere, è previsto almeno da quest'anno che alcune cose proprio non ci siano, come per esempio le spese mediche per medicinali, no? Eh sì, quella è la detrazione che sicuramente non sarà presente. Tanto è vero che la stessa Agenzia delle Entrate ha stimato che per quest'anno in 7 casi su 10 il 730 precompilato andrà modificato o integrato. Non c'è quella spesa, non c'è la spesa ad esempio sostenuta per le spese molto diffuse, non c'è la spesa per la palestra dei figli, non c'è la spesa appunto per le spese di istruzione dei figli. Diciamo quest'anno ci sono soltanto i redditi che sono stati trasmessi con la certificazione unica a inizio marzo, le detrazioni per premi di assicurazioni e per mutui, gli interessi passivi sui mutui, come quelli appunto per il mutuo prima casa, e una serie di altre voci che fanno parte già del patrimonio dell'anagrafe tributaria, come appunto i contributi ad esempio pagati alle colf, e ci sono anche le spese per i lavori in casa, la detrazione che è attualmente al 50%, ma attenzione, soltanto dal secondo anno, cioè il fisco precarica insomma la seconda, la terza, la quarta rata di detrazione, facendo appunto leva su quello che conosceva negli anni precedenti. Ti ringrazio, grazie a Giovanni Parente, ovviamente dettagli tanto sul Sole 24 Ore oggi in edicola, quanto sul sito del Sole 24 Ore e ovviamente nei prossimi giorni anche sul cartaceo. C'è stato un crollo di intonaco ed è notizia di pochi istanti fa, nella notte, nella porzione di un asilo nido nel Bresciano, l'asilo Marzotto di Manerbio. Il sindaco del paese ha disposto la chiusura per 4 giorni per effettuare tutte le verifiche. Il crollo sarebbe dovuto ad infiltrazioni d'acqua in alcune terrazze. L'asilo era stato acquistato al comune di Manerbio nel 2007 e ristrutturato anche questo pochi mesi fa. Un caso simile evidentemente a quello di Ostuni. E poi c'è il caso di Olbia, ci torneremo tra poco con il sindaco di Olbia. È stato presentato questa mattina una sorta di piano di Rete Ferroviaria Italiana per Expo e c'è stata anche la possibilità di toccare il tema delle frane. Iniziamo però da Expo appunto e quindi dalla mobilità con la nostra Anna Marino che ha seguito l'appuntamento. Anna, buongiorno. Sì, buongiorno a te Simone, buongiorno agli ascoltatori. I lavori di Expo sono in buona salute nonostante la mancanza di fondi e alle tante difficoltà. Così il governatore della regione Lombardia Roberto Maroni fa il punto anche sulle infrastrutture e fa anche un annuncio: il 26 di questo mese parte un nuovo piano servizi Ferrovie Trenord per Expo. Un dato su tutti: la stazione di Rofiera sarà servita da 380 treni ogni giorno, uno ogni 6 minuti, 900.000 posti, ma annuncia che chiederà un investimento di almeno 1 miliardo di euro ovviamente per all'infrastrutture e per l'infrastruttura appunto della Lombardia. E addirittura finale anche i lavori di Italferr, spesi 90 milioni solo sulle infrastrutture della Lombardia e intorno a Milano, diversi miliardi invece in generale. L'amministratore delegato del gruppo FS Italiane Michele Mario Elia rassicura anche sotto per quanto riguarda la sicurezza dopo i dissesti idrogeologici, tutto sotto controllo, dissesti che hanno colpito anche la rete ferroviaria. Così ha sottolineato gli ultimi lavori con le istituzioni. Noi abbiamo lavorato a stretto contatto con D'Angelis della Presidenza del Consiglio, ha ritenuto il nostro lavoro un ottimo lavoro. Abbiamo circa 1800 punti monitorati, cioè controllati sempre, quindi la conoscenza è il primo elemento. Su molti di questi, compatibilmente con le esigenze, le disponibilità finanziarie, noi stiamo già lavorando. Il primo territorio su cui abbiamo lavorato in maniera incisiva è stato Genova, no? Siamo intervenuti su oltre 30-40 punti. Gli altri sono tutti sotto controllo. In occasione di intemperie o situazioni anomale che si verificano, noi disponiamo i presenziamenti e quindi i primi interventi che facciamo sono quelli di mitigare le velocità o intervenire con presenziamenti in modo da stare sempre allerta. È tutto sotto controllo, perlomeno di tutto quello che conosciamo. Certo, coordinamento anche con le autorità di bacino per vedere i piani, le aree segnalate che si intersecano con la rete ferroviaria. FS ha lavorato anche sulle infrastrutture complesse, ponti, sismiche, con una ricognizione già effettuata e con personale assunto ad hoc. A te la linea, Simone. Grazie Anna Marino. Noi abbiamo parlato in apertura del caso di Google, torniamo sul tema delle telecomunicazioni ma per tutt'altro motivo. Parliamo di una grande operazione che ha ricevuto il via libera questa mattina. Nokia ha dato il via libera per l'acquisizione e la successiva fusione con Alcatel Lucent, che valorizza la società francese 15,6 miliardi di euro. Diventa il maggior gruppo mondiale nel settore delle strumentazioni per le telecomunicazioni. Luca Salvioli del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Che cosa rappresenta questa operazione? È stato fatto un racconto un po' francocentrico fino ad oggi, nel senso che si parla di fusione. In effetti è un'acquisizione da parte di Nokia e la prima cosa che mi viene da sottolineare è il fatto che Nokia torna un colosso. L'abbiamo vista cedere i suoi cellulari poco tempo fa per circa 7 miliardi di dollari e quindi perdere, diciamo, il volto più conosciuto da tutti di Nokia, quindi cellulari e quel marchio che usavamo in tanti fino a pochi anni fa. È rimasta sul business delle reti, che era il profittevole ai tempi della vendita, e ha deciso di fare un grosso investimento comprando Alcatel, due aziende europee, due aziende che comunque hanno passato anni difficili, anche Alcatel Lucent, che viene franco-americana, che veniva da una fusione, ha passato degli anni molto difficili, in particolare per la competizione molto forte da parte del colosso cinese Huawei. Si mettono insieme le loro forze, nasce un colosso europeo, è un po' una rivincita di un'Europa che nella tecnologia è sostanzialmente scomparsa, almeno per quanto riguarda i prodotti e i grandi nomi di internet, ci siamo sulle infrastrutture di rete con dei numeri, perché potenzialmente i ricavi saranno, appunto, come dicevi tu prima, rappresenteranno il primo gruppo contro Huawei e Ericsson, gli svedesi di Ericsson. Staremo a vedere se anche i risultati di business daranno ragione alla strategia del colosso finlandese. Grazie Luca Salvioli del Sole 24 Ore per questa analisi. Torniamo sulla cronaca. Notizia di poco fa: un pediatra che lavorava a Milano avrebbe abusato di 11 bambini, tutti minori di 14 anni, uno anche di appena 2 anni, in 10 anni e fino all'anno scorso. L'uomo iscritto all'albo dei medici ma anche sedicente psicologo era stato arrestato nel 2014 per un caso, ma poi dalle indagini del commissario Lorenteggio e della squadra mobile, coordinate naturalmente dalla Procura di Milano, sono emersi altri episodi e sevizie. Ora è imputato con rito abbreviato. Dopo le condanne, le immagini, infine la sentenza della Corte di Strasburgo sulle violenze alla scuola Diaz durante il G8 di Genova, parla uno degli agenti e sta creando molte polemiche, Fabio Tortosa. Rientrerei alla Diaz mille volte, dice, e il ministro Alfano promette che sarà fatta chiarezza. Tortosa è intervenuto ieri alla Zanzara. Entrerei mille e mille volte all'interno della scuola Diaz perché la vedo dal punto di vista operativo della tipologia di operazione che siamo stati chiamati a fare, che ribadisco essere stata ineccepibile, ma l'ineccepibilità è stata messa in discussione da una realtà processuale. Io invito tutti ad una riflessione di quanto sia realmente accaduto. Siamo al giorno dopo la vittoria all'andata della Juve in Champions League. Il nostro Dario Ricci ha intervistato Massimiliano Allegri, l'allenatore della Juve. È un risultato importante contro una squadra difficile da affrontare. Dovremmo fare anche un'altra bella partita a Monaco per portare a casa la semifinale. Io immaginavo, perché è una squadra che non concede, una squadra che ha i numeri dalla sua parte, una squadra che ha la migliore difesa del campionato francese e ha subito solamente 4 gol. Dobbiamo migliorare soprattutto in certi momenti della partita, quando gioca con queste squadre qui bisogna essere più bravi. Rigore più che dubbio. Ho visto io credo che fosse fallo dall'ultimo uomo. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. L'Europa apre un'indagine su Google per abuso di posizione dominante nelle ricerche su internet. Rischia una multa da 6 miliardi. Il Senato vota la fiducia al governo sul decreto contro il terrorismo, sia anche dagli ex forzisti Bondi e Repetti. Scontro nel PD sulla legge elettorale. Ancora incertezza sulla sorte di 400 persone che sarebbero morte in un naufragio al largo della Libia. Le regioni sono preoccupate per l'accoglienza. Parleremo tra poco con un rappresentante delle regioni proprio per cercare di capire come ci si intende muovere. Io intanto saluto Gianni Giovannelli, sindaco di Olbia, che torna da noi. Sindaco, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a lei, buongiorno. L'abbiamo chiamata per questa notizia che è arrivata ieri di un nuovo crollo in un'aula scolastica, la scuola elementare Maria Rocca di Olbia. Una plafoniera si è sganciata dal soffitto ed è piombata su un banco che per fortuna era vuoto e ha trascinato con sé una seconda lampada. Questa scuola tra l'altro era stata sconvolta letteralmente dall'alluvione che tanto abbiamo raccontato nel 2013, sindaco, no? No, nel 2013 l'alluvione ha colpito la scuola di Maria Rocca. I ragazzi, i bambini che studiano in quella scuola sono stati ospitati in un'altra... No, giusto per chiarire con gli ascoltatori, qua ci siamo fidati. Appunto, delle agenzie... Lo dico a mia difesa, sindaco. Le agenzie hanno pubblicato questa notizia, noi l'abbiamo presa, l'abbiamo chiamata e stiamo verificando con lei, prego. No, allora dicevo, l'alluvione ha colpito la scuola di Maria Rocca a suo tempo, 2 anni fa, i bambini di Maria Rocca dall'anno scorso sono stati ospitati in una nuova scuola costruita, realizzata all'interno di una struttura data in concessione ai salesiani e sono stati spesi 600.000 euro per metterla a norma, per sistemarla. Purtroppo sono state messe in opera delle plafoniere certificate a norma, la ditta certificata ha posizionato queste plafoniere. Una di queste plafoniere, pur avendo utilizzato l'impresa i tasselli previsti nel kit di montaggio, una di queste plafoniere il supporto ha ceduto, tant'è che adesso la plafoniera sarà oggetto di controllo e si verificherà se c'è stato un difetto di montaggio, un errore di montaggio, oppure se il prodotto aveva qualche difetto. Quindi nessun problema strutturale. Il problema è, lei pensi che il Comune di Olbia l'anno scorso, proprio perché ha avuto una deroga al patto di stabilità, ha investito 3.200.000 euro sulle scuole per mettere a norma le scuole di Olbia, tuttora stiamo facendo controlli per il famoso problema dello sfondellamento, che è un problema che riguarda tutti gli edifici che hanno più di 20 anni, di 30 anni, però sotto questo punto di vista è successo un problema di queste lampade che avevano hanno manifestato questo tipo di problema. Adesso lo verifichiamo, questa mattina i lavori sono in corso, questa sera saranno terminati, per cui i ragazzi potranno tornare in classe, rientrare in una scuola che, ripeto, è nuovissima perché è stata inaugurata proprio lo scorso anno. Sindaco, già che l'abbiamo in linea, ci faccia fare un breve punto sulla situazione. Siamo a quasi un anno e mezzo da quella drammatica alluvione. Come vanno le cose? Ma le cose vanno bene sotto il profilo della ripresa della vita in città, al di là della crisi che colpisce credo tutte le città indipendentemente dalle alluvioni. Abbiamo terminato, siamo in corso di ultimazione per quanto riguarda la fase progettuale dei lavori per la messa a norma dei canali, per la messa in sicurezza dei canali. Abbiamo investito oltre 20 milioni di euro di soldi comunali, anticipando i contributi statali che devono ancora arrivare. C'è la promessa da parte della regione che finanzierà questo progetto per la mitigazione del rischio idrogeologico, che costa complessivamente 122 milioni di euro. Sia la struttura di missione a livello nazionale sia la regione sarda ci stanno garantendo questa disponibilità, e di conseguenza siamo fiduciosi che le opere vere e proprie, non solo quelle di messa in sicurezza che lasciano il tempo che trovano, ma proprio le opere risolutive rispetto al rischio, queste potranno essere avviate con i contributi statali. Risposta secca. Una domanda spero altrettanto secca. Se arrivasse un'alluvione di quel genere adesso, la città sarebbe pronta o no? Assolutamente no. Assolutamente no, perché la città sarà pronta solo quando verranno realizzate le opere, quelle strutturali. La messa in sicurezza, nel senso la rete vicino al canale per evitare che una macchina ci finisca dentro. Qui stiamo parlando di realizzazione di casse di laminazione, di canali scolmatori, comunque di infrastrutture che devono mettere in sicurezza un territorio che ha una complessità idraulica pazzesca. Grazie Gianni Giovannelli, sindaco di Olbia, a risentirla. Federico Cafiero De Rao, procuratore capo di Reggio Calabria, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. L'abbiamo chiamata perché questa mattina avete messo a segno un arresto per una vicenda molto particolare, devo dire che ci ha colpito molto. Un giovane di 22 anni che avrebbe ucciso nell'agosto del 2013 la madre perché legata a una persona di un altro clan, abbiamo capito bene? Beh, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, perché questo è il provvedimento che è stato eseguito, vede il giovane accusato di omicidio pluriaggravato anche dall'agevolazione, no, della cosca per la quale si è operato, oltre che per le modalità mafiose, e per delitti di porto e detenzione di arma che appunto è servita per l'esecuzione dell'omicidio. In sostanza è il soggetto appartenente ad una famiglia che si muove nella cosca Bellocco, così come l'omicidio è maturato a seguito di una relazione extraconiugale che la mamma del giovane aveva con altro soggetto, Domenico Cacciola, pur inserito sostanzialmente in cosca, sempre riconducibile alla stessa articolazione indranghetista. È un fatto certamente gravissimo, proprio in considerazione della violazione, direi, di tutti i valori, i sentimenti, no, di, familiari che legano un figlio ad una madre, perché ancora una volta prevalgono le regole di 'ndrangheta, perché l'andrangheta è talmente spietata da non riconoscere nemmeno il vincolo di sangue. Per la verità, per i soldi ce ne sono stati anche in passato. Procuratore De Rao, le chiedo solo una piccola altra domanda su tutt'altro argomento. Abbiamo appreso questa mattina che sono arrivate delle minacce al procuratore Salvatore Di Landro. Voi ne siete informati? State indagando? Di che cosa si tratta? Ci può dire qualcosa? Sì, si è trattato di una minaccia che è arrivata qualche giorno fa, sabato scorso, all'utenza del procuratore. È già stata identificata la persona, è già stata individuata sostanzialmente l'area nella quale si muove, quindi voglio dire, su questo già si è fatto luce. La ringrazio, grazie al procuratore Federico Cafiero De Rao, procuratore di Reggio Calabria, per essere stato con noi. E ci fermiamo, c'è una pausa, ci ritroviamo subito dopo per parlare tra l'altro di borsa ovviamente e poi di immigrazione, dell'accoglienza da parte delle regioni. All'ascoltatore ci dice abbiamo passato troppo tempo a parlare di una plafoniera di Olbia, sa, in questi giorni nei quali i crolli alle scuole sono piuttosto frequenti, come avete visto ce n'è stata un'altra oggi a Manerbio, vi abbiamo dato notizia poco fa, ogni elemento di questo genere può rappresentare un fronte di preoccupazione. Che fosse poco grave non l'abbiamo saputo finché non abbiamo sentito il sindaco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. L'Europa ha aperto un'indagine su Google per abuso di posizione dominante nelle ricerche su internet. Prima replica dell'azienda, pochi istanti fa, siamo fortemente in disaccordo, non vediamo l'ora di presentare la nostra posizione. Il giorno del 7.30 precompilato, si può scaricare da questa mattina sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Il Senato ha votato la fiducia al governo sul decreto contro il terrorismo, sì anche dagli ex forzisti Bondi e Repetti. L'attenzione si concentra sul PD, scontro interno sulla legge elettorale. Nuovo crollo di intonaco in una scuola è successo a Manerbio, nel Bresciano, una scuola, anche in questo caso un asilo, ristrutturato da poco. La borsa. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta Borse in diretta. Borsa che va bene oggi, più 0,8% il FTSE MIB, più 0,88% il FTSE All Share, positiva anche Parigi, più 0,65%, Francoforte più 0,46%, Londra più 0,32%. Isabella Tasso, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buongiorno e bentornata. Buongiorno. Come mai sono positivi i mercati? Ma i mercati sono tutti generalmente positivi, Milano fa leggermente meglio degli altri grazie al rialzo dei titoli energetici che trovano sostegno nel rialzo dei prezzi del greggio. A sostegno delle borse anche l'euforia per l'operazione di fusione dopo l'annuncio dell'accordo fra Nokia e Alcatel-Lucent. Oggi è in previsione la riunione del comitato direttivo della Banca Centrale Europea, l'esito si saprà fra poco, non si aspettano comunque particolari novità. Altri titoli da segnalare, Isabella? Dicevamo bene i titoli energetici, Saipem fa più 2,8% e continua ad accumulare guadagni, fa più 65% dai minimi di gennaio, bene anche Tenaris che sale del 3%, bene Eni che sale dell'1,4%, Exor cede invece l'1,3%, questo dopo l'annuncio di un'offerta tutta cash da 6,4 miliardi di dollari su un gruppo americano attivo nel settore della riassicurazione, Partner 3. Grazie Isabella Tasso, Radio Core, Il Sole 24 Ore. Buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Lorena Rambaudi, coordinatrice nazionale della Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni. Cos'è la Conferenza delle Regioni? È questo organismo che appunto raccoglie i rappresentanti delle regioni italiane ed è anche assessore alle politiche sociali della Regione Liguria. Buongiorno e benvenuta Rambaudi. Ci sente? Sì, io vi sento benissimo. Ah, benissimo, perfetto. Abbiamo avuto qualche problema invece a sentirla noi. Allora, i suoi colleghi e più che altro i presidenti di regione stanno andando un po' in ordine sparso, come prevedibile, sul tema dell'accoglienza degli immigrati. Ieri vi abbiamo raccontato ai nostri ascoltatori di questa circolare mandata dal ministro dell'interno, Angelino Alfano, che diceva che bisogna trovare 6.500 posti urgentemente, circolare mandata ai prefetti, eventualmente anche requisendo. Abbiamo sentito il capo, per così dire, di quello che potremmo definire il sindacato dei prefetti, ci diceva che è una circolare di difficilissima applicazione. Io vorrei capire da lei come siete messi come regioni, ossia che disponibilità c'è, che spazi ci sono ancora spazi per accoglienza, perché molti ascoltatori ci scrivono di spazi non ce ne sono più. Prego. Indubbiamente siamo in difficoltà rispetto a questa circolare. Noi abbiamo fatto un accordo Stato, regioni e comuni per un'accoglienza diffusa che avesse meno impattante possibile, quindi non con grandi numeri ma con una diffusione sul territorio. Abbiamo diviso a quote tra le regioni e abbiamo inventato un sistema. Dalla prima in emergenza Nord Africa del 2011, diciamo che ora c'è un coordinamento, abbiamo un sistema di accoglienza, in alcune regioni funziona meglio, altre peggio, come tutte le cose, insomma ci sono anche diverse velocità, ma diciamo che abbiamo un modello e un sistema. Ora i numeri stanno andando ben oltre quello che erano le previsioni. Quando abbiamo fatto il piano prevedevamo 60.000 arrivi, gli arrivi sono stati invece quasi 190.000, quindi abbiamo sicuramente, poi abbiamo 190.000 presenze, c'è stato molto turnover. Quindi 130.000 in più rispetto a quanto non avevate preventivato. Però diciamo c'è stato molto turnover, quindi sì. In realtà le presenze, se non ho il dato aggiornatissimo, comunque non sono certo quelle. Molto, noi siamo paese di transito, insomma la nostra posizione geografica che ci fa essere, siamo appunto anche di passaggio, quindi prima accoglienza su cui c'è stato molto turnover. Rambaudi, ma il sistema delle regioni italiane, per intendere in questo caso il sistema italiano, è secondo lei in grado di reggere un'estate che rischia di essere un'estate di grandi partenze dalla Libia? Siamo, a mio parere, da quello che ci siamo anche detti con i colleghi nell'ultima riunione qualche settimana fa quando ne abbiamo parlato, siamo abbastanza in difficoltà, perché le prefetture hanno fatto i bandi per le gare, diciamo, per i posti a disposizione da parte delle strutture sociali, e chi aveva la disponibilità di posti, che volontariamente voleva, come dire, impegnarsi in questo lavoro dell'accoglienza, lo ha già fatto, e i posti di quelli a disposizione con quel processo appunto di volontarietà sono finiti o quasi. E quindi si apre necessariamente una nuova fase. Ora noi dovremmo, io credo, più che appunto disattendere un accordo Stato-Regioni così sulle dichiarazioni, ma cercare di valutare col governo quali sono le possibili strategie, diciamo, con dei numeri che stanno diventando così imponenti. Dubbio che cambia lo scenario. Considerato che ci saranno alcune regioni che rifiuteranno di accogliere altre persone, penso al Veneto, penso alla Lombardia, Maroni e Zaia sono stati molto chiari da questo punto di vista. Ma Maroni, quando era il ministro dell'interno, fece con noi il primo accordo che si basava proprio sull'accoglienza diffusa in tutte le regioni, quindi evidentemente cambiando prospettiva ha cambiato idea. Ho capito, però dico, lei diceva Non esiste, guarda, sì. Secondo me non, allora la politica, quella quando si hanno ruoli di governo bisogna rispettare gli accordi, perché gli accordi, le intese Stato, Regione, autonomie locali non sono carta straccia e quindi sono degli impegni di tipo amministrativo. Poi se uno sui giornali vuol fare un po' di demagogia, per carità, se lo fa, però l'impegno c'è, quindi non saranno certo altre regioni a farsi carico della quota di altri, cioè l'accoglienza è diffusa, abbiamo le nostre quote di accesso, ognuno deve fare la sua parte. Questo è sicuramente la posizione della conferenza delle regioni. Grazie a Lorena Rambaudi, coordinatrice nazionale della Commissione Politica Sociale della Conferenza delle Regioni e assessore alle politiche sociali della Regione Liguria. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E come ogni mercoledì è il momento dell'appuntamento con la nostra rubrica sugli autotrasporti. Oggi tra l'altro parliamo proprio di un tema di queste ore, ossia la Palermo-Catania e l'impatto di quel danno sull'autostrada che ha su questo mondo e non solo su questo mondo. Hashtag autotrasporti. Dalla collina la frana ha trascinato detriti di ogni tipo fino alla base dei piloni del viadotto Imera lungo la Palermo-Catania, incrinandone due e danneggiandone altri tre. Interrotta l'autostrada, da giorni la Sicilia è spezzata in due. Per ripristinare la viabilità occorre ricostruire 300 metri di ponte, ci vorranno dai 18 ai 24 mesi di lavoro. Le conseguenze per il mondo dell'autotrasporto sono pesantissime. A lanciare l'allarme e chiedere interventi urgenti da parte del governo è la CNA Fita Autotrasporto. Massimo De Donato ha sentito la presidente nazionale Cinzia Franchini. È un problema enorme, noi abbiamo il paese diviso a metà, quest'ultimo crollo viene dopo un altro di qualche mese fa sull'Agrigento-Palermo e un tratto della Salerno-Reggio Calabria completamente chiuso al traffico pesante. Qui noi non riusciamo più a trasportare le nostre merci, il rischio è che tante imprese dell'autotrasporto vengano fortemente penalizzate e addirittura possano chiudere. Ecco, c'è un problema anche per l'utente finale, i consumatori che potrebbero vedere a rischio anche i rifornimenti del negozio sotto casa, tanto per intenderci. Beh, assolutamente sì, pensiamo ad esempio al mercato ortofrutticola, noi sappiamo che a Vittoria insiste un mercato tra i più importanti d'Italia e per cui c'è anche un'esigenza di portare questi prodotti poi al nord. Oltretutto potrebbe, come dire, anche esserci un aggravio di costi, pensiamo che i percorsi alternativi che sono stati individuati o non sono proprio percorribili per i mezzi pesanti oppure fanno sì che i tragitti si allunghino di molti chilometri con un aggravio appunto di costi insostenibile. Tra l'altro alcuni sindaci dei comuni limitrofi al crollo che è avvenuto in Calabria già stanno preparando le ordinanze per bloccare il traffico pesante, quindi ci saranno ulteriori peggioramenti per quanto riguarda la mobilità della merci. Guardi, noi siamo pronti a mobilitarci proprio perché abbiamo ben presente quello che può essere lo scenario. Non è possibile che nel 2015 ci sia un'Italia tagliata davvero a metà. Il Sud paga già una forte carenza infrastrutturale, sia stradale che ferroviaria, questa situazione non fa davvero che aggravare ulteriormente le condizioni delle nostre imprese. Occorre che il ministro Delrio ci convochi rapidamente e insieme si possano individuare delle soluzioni accettabili per gli imprenditori. Il ministro Graziano Delrio ieri ha effettuato un sopralluogo sul viadotto pericolante e ha promesso fondi per rimetterlo in sesto e subito soluzioni alternative. Si parla di un bypass di 1,5 km da realizzarsi in fretta per ricucire lo strappo che sta dividendo la Sicilia. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Hashtag autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Ed è tutto per Effetto Giorno, i ringraziamenti Carmelo Lauricella in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione e tutta la redazione di Radio 24 come sempre. Se volete scriverci effettogiorno@radio24.it. La trasmissione torna domani alle 13, noi ci risentiamo tra un attimo con GR24.